Scarfa la macchina, ribelli. Partimo. Strampalati family, original from San Art. You put fire on me, heart. Non conta, non conta, non conta quanti siamo. Contro la noia, il sole è meglio quello che cantiamo. Non conta, non conta, non conta quanti siamo. Contro la noia, il sole è meglio quello che cantiamo. Ecco Rampo insieme allo poeta, bella ma porta rispetto per sto cazzo di progetto, perché facciamo fuoco ma ci serve la scintilla che unisca tutti quanti in una sola famiglia. Collaborazioni, stesso cuore sotto il petto, dobbiamo portare in alto il valore del dialetto. L'unica sola lingua buona parlata in tutta quanta quest'Italia, terrona. La lingua della gente vera, quella che riunisce sotto un'unica bandiera. La lingua dell'Italia popolare, quella che identifica la gente che vive lo stivale. La usi per parlare, palese, palese, ricorda la storia del tuo stesso paese. Mostriamo i valori e siamo stretti per far capire che non siamo solo mafia e spaghetti. Dall'Umirante ci spingiamo fino a Roma, portiamo in tutta Italia il nostro idioma. Sta giri per l'Italia per me che di indicazioni, camo culo di pelle, ma c'è tutti lì direzioni. Non conta, non conta, non conta quanti siamo. Contro la noia, il sole è meglio quello che cantiamo. Non conta, non conta, non conta quanti siamo. Contro la noia, il sole è meglio quello che cantiamo. Accendiamo la passione, ce ne andiamo. Il giro per l'Italia, noi pazzi cominciamo. Start da Maruggio, il paese che amiamo. Ribelli nel Raffu, come ci chiamiamo? Zero distinzioni tra paese e paese. Gli sfortunati ne fanno le spese. Cerchiamo di portare unica bandiera, l'Italia senza confini, la nuova era. Forza Raffu, prepara la ricetta. Miscuglio di dialetti, la rende perfetta. Perché noi crediamo nelle nostre ambizioni. Do cazzo ma girare in tutte le direzioni. Passo il casello, sto nella capitale. Troviamo una pischella per farci divicare. Scusa, bella, stiamo a fatto progetto. Vieni con noi e porto il tuo dialetto. Da Roma fino alla graziosa Madonnina, in terra leghista siamo stamattina. Due pazzi terroni, terra straniera. Un messaggio di pace, la nostra bandiera. Non conta, non conta, non conta quanti siamo. Contro la noia, il sole è meglio quello che cantiamo. Non conta, non conta, non conta quanti siamo. Contro la noia, il sole è meglio quello che cantiamo. Facciamo perché ci piace il sistema, la noiosa vita. Predichiamo ciò che è bello, sì, non lo facciamo. Ignoriamo ciò che è male, bene, lo proviamo. Musicanti strampalati, che grille, lo sappiamo. Rampo di Bellino, tutto combination. Senti bene le campane, fanno di don don. Seminiamo musica pura, da far paura. Tutto cresce a dismisura, qui non c'è mietitura. Dopo la fuori per una sino fosco tocca a me. Facciamo un salto dalla vecchia, ti chiediamo mo com'è. Strappa la patazza come musicanti, siccome hai sentito emozioni da marce militari. Segreti illuscali che non capirai mai. Passeggiati con pensieri dal di fuori della musica, perché la tua mente non comprenderà. Non conta, non conta, non conta quanti siamo. Contro la noia, il sole è meglio quello che cantiamo. Non conta, non conta, non conta quanti siamo. Contro la noia, il sole è meglio quello che cantiamo.